Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buongiorno, bentornati a Dietro la Notizia. Scusate la voce un po' influenzale, un po' di stagione, l'influenza sta percorrendo le strade italiane, così come la crisi finanziaria sta percorrendo un po' le strade della globalità. Oggi abbiamo con noi Giacomo Vaciago. Buongiorno Vaciago. Buongiorno a tutti. Giacomo Vaciago è professore di economia politica presso l'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Proprio questa mattina su Sole 24 Ore c'è un suo articolo, Deflazione e recessione, unica cura, la produttività. Un articolo in cui si prende in esame lo stato dell'arte della crisi, in cui si sottolinea come il comportamento dell'economia americana, adesso lo vedremo, sia differente da quello dell'economia europea, e in cui si analizza anche quello che potrebbe fare l'Italia per affrontare appunto la crisi. Ricordo agli ascoltatori il numero verde 800 24 00 24 e con Vaciago allora comincerei proprio da questo punto: come mai l'America sta comportandosi diversamente dall'Italia, e in fondo sembra che il luogo da dove è partita questa grande crisi stia reagendo meglio. Quali sono le differenze? Giacomo Vaciago. Ma la principale differenza è la qualità della competizione, che nell'economia americana è molto maggiore ed è molto basata sul prezzo. Quindi, quando le cose vanno male, pur di vendere, si riducono i prezzi. Da noi in Europa, questo è il modello anglosassone, lo stesso vale per l'Inghilterra. Nelle recessioni i prezzi scendono, l'inflazione si riduce, i tassi di interesse si buttano giù. In questo modo la recessione cura in parte i precedenti guai e consente all'economia di non peggiorare troppo, perché la riduzione dell'inflazione e dei tassi di interesse sostiene un po' la spesa delle famiglie. Da noi questo succede molto meno, da noi intendo Italia, Francia, Germania, la parte del mondo dove la competizione non è un valore così forte, dove si preferisce non produrre invece che ridurre i prezzi. E quindi il paradosso è che mentre nelle recessioni americane, non solo in questa, anche nelle precedenti, la produttività aumenta, da noi si riduce la produttività. Il che significa che la nostra economia esce peggiorata dalle recessioni, ne soffriamo di più in termini di opportunità di sviluppo successivo, mentre paradossalmente in America, ho scritto stamane, le recessioni sono parte della cura. Certamente quello è un capitalismo a noi più sgradito, perché noi preferiamo i modelli sociali più protettivi. Però alla fine è il nostro consumatore, sono i nostri giovani che pagano. Ecco, quando c'è recessione qualcuno paga. Questo sta avvenendo anche in Italia, appunto questo fenomeno, questa vischiosità un po' del mercato. Vediamo per esempio come il prezzo del petrolio sia sceso sotto i $50, ma i prezzi dei carburanti al consumo scendono molto molto più lentamente verso i livelli che erano quando appunto il petrolio era a $50. Quindi c'è una maggiore resistenza del mercato a funzionare, a fare la sua parte. Per quali cause, Giacomo Vaciago? Le cause sono tante e non c'è lo stimolo a competere via prezzi, non c'è lo stimolo a continuamente guadagnare in produttività. Se lo vediamo nei nostri servizi, la manifattura in Italia ancora si deve difendere dalla concorrenza internazionale e quindi non può fare tanto i suoi comodi, ma nel settore dei servizi, tutti compresi, anche quelli privati, non solo quelli pubblici, chiaramente le vischiosità sono enormi. Allora, l'Università di Harvard, prestigiosa, prima al mondo, largamente mantenuta dai suoi capitali lasciati da eredità di studenti che grazie alla loro università hanno fatto i soldi, questa università soffre della crisi finanziaria come altre grandi istituzioni, sta rinegoziando riduzioni degli stipendi. Noi preferiamo mandar via gli insegnanti, è un'altra tecnica per risparmiare e non è ovvio che ci guadagna la qualità. Ecco, cosa può fare l'Italia in questa fase? Il governo sta preparando, ha annunciato alcune misure di sostegno della domanda, soprattutto per le fasce più deboli. Dobbiamo ancora, peraltro, vedere come saranno strutturate queste misure. Mentre nell'articolo appunto su di oggi si sottolinea, Giacomo Vacciago sottolinea la necessità di rilanciare la produttività. La produttività si rilancia però soprattutto attraverso dei meccanismi di mercato che aiutino l'impresa ad essere più efficiente e aiutano appunto la concorrenza ad agire. E in questa fase mi sembra che ci sia poca voglia però di mercato, sembra che sia una fase in cui ci sia un po' più di voglia di Stato, di controllo dall'alto, di ritorno alle garanzie statali. Quindi il concetto di produttività forse sembra confliggere verso con una tendenza attuale del pensiero economico. Giacomo Vacciago. Ma certamente questo che io sostengo è che c'è il pericolo che usciamo da questa vicenda largamente macroeconomica e congiunturale peggiorati invece che migliorati, anche in termini di equità sociale. Non tutti soffrono nello stesso modo. Attenzione che qui si sommano oramai tante cose diverse. Abbiamo una crisi finanziaria che nasce in America e diventa europea. Siamo stati un anno immobili a guardare dicendo tocca agli americani, peccato che nel frattempo il contagio riguardava anche noi. Poi abbiamo una recessione che certamente anche questa è poco colpa nostra, però ahimè in un mondo globale i guai girano al mondo come le buone notizie, oggi è la stagione delle cattive notizie, benissimo, dobbiamo saperlo. Oh, si sono riuniti una settimana fa a Washington i 20 potenti del mondo, c'era anche l'Italia, meno male, e hanno deciso, 6 pagine fitte erano scaricabili sul Sole o sul sito della Casa Bianca, White House, erano scaricabili 6 pagine fitte di promesse e poi la realizzazione di queste cose è, ahimè, lentissima e siamo invece oramai in emergenza. Allora, nell'emergenza arrivano i pompieri se c'è un incendio, non si bada molto a cosa fare, poi naturalmente si ricostruisce, ma qui noi siamo in recessione da tempo, perché già nell'aprile questo paese ha frenato, prima i consumi e sembrava un problema solo di chi non arriva a fine del mese, peccato che il numero di quelli che non arrivano a fine mese è continuamente cresciuto. Ma in Italia, caro Vacciago, in Italia ci sono altri problemi ben più gravi, la commissione di vigilanza della RAI per esempio sta impegnando il mondo politico da giorni e giorni in una lunga trattativa per cercare una soluzione ormai da mesi, quindi come possiamo pensare che si possa Tu lo dici con ironia manifesta e mi inviti a nozze, ma i problemi, ahimè, sono seri e quindi oggi riesco a essere meno spiritoso del solito. Grazie, no. Sentiamo Claudio da Prato, buongiorno. La presenza del professore mi solletica alla domanda che continuo a pormi da qualche decina d'anni e che non ha molte risposte. Perché dovremmo continuare a incrementare i consumi? Guardate che la crisi che è arrivata è proprio derivata dall'esasperazione del consumo finanziario. Perché? In quale libro sacro è scritto che il futuro debba essere costantemente, diciamo, incrementante i consumi del mondo? In quale modello di sviluppo c'è scritto questo? Grazie, mi sembra che la domanda sia molto precisa. Io potrei rispondere nel senso che al consumo corrisponde una produzione, alla produzione corrispondono dei posti di lavoro e quindi dobbiamo pure badare ad avere dei posti di lavoro per dare lavoro a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti. Giacomo Vacciago. Ma bisogna intendersi anche qui, non è un problema di chili di cose consumate, è un problema di qualità. Ai primi stadi di reddito quello che conta è mangiare e non morire di fame. Man mano che il reddito aumenta non è tanto la quantità di beni che consumiamo, perché io non mangio 100 volte quello che mangiavo quando ero più povero, mangio semplicemente cose migliori. E questo guadagno di qualità io lo trovo nella qualità dell'essere uomini. L'uomo è l'unica specie animale che dedica molto tempo a migliorare la qualità della sua vita. Non sempre ci riesce, a volte sbaglia, farlo con debiti, ha ragione l'ascoltatore, farlo con debiti prima o poi si paga, però attenzione che da Adamo ed Eva l'uomo è la specie animale che più dedica tempo a migliorare la qualità della sua vita, e con la produzione appropriata nella qualità sempre migliore di beni, il consumo è funzione della capacità nostra di migliorare il nostro benessere. Non c'è dubbio su questo, ma ovviamente senza esagerare e senza farlo coi soldi degli altri. Grazie Vacciago, sentiamo Gabriele da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo fare solo una piccola considerazione. Io sono tantissimi anni che lavoro come libro professionista e nei momenti migliori ho cercato di costruire per affrontare eventuali momenti di difficoltà. Io mi chiedo perché oggi le banche e le grosse industrie, non solo nazionali ma anche internazionali, dobbiamo sostenerle così fortemente, quando fino all'anno scorso leggevo sui giornali qualificati, economici o quant'altro, che facevano degli utili impressionanti. Cioè, in questi momenti non era il caso di crearsi una garanzia per questi momenti che stiamo purtroppo attraversando? Mi sembra una domanda molto chiara. Le banche hanno fatto utili molto forti negli anni passati, forse si sono comportate come le cicale. Stiamo parlando con Giacomo Vacciago, professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano, dell'attuale crisi finanziaria, di cosa può fare l'Italia. Faccio un riassunto dell'ultima domanda che è rimasta senza risposta di un ascoltatore che ha detto: le banche hanno fatto grandi utili negli anni passati, forse sono state un po' troppo cicale e adesso si trovano a dover chiedere degli aiuti pubblici. Giacomo Vacciago. Assolutamente sì, ha ragione l'ascoltatore, e in effetti la tecnica del buon salvataggio è quello di rilevare il futuro della banca, non il passato, pagando un euro agli azionisti. Se la banca sta per fallire, viene salvata con un euro. In altre parole, vogliamo evitare che chiuda perché danneggerebbe tutti, ma non vogliamo nemmeno remunerare i rischi eccessivi che ha corso, e quindi i salvataggi bisogna saperli fare senza accomodare troppo i passati errori. E quindi qualche testa, per dirlo un po' chiaramente, dovrebbe saltare? Ahimè sì, e soprattutto perché per il futuro bisogna avere gente nuova che non ripeta gli errori passati. Luigi da Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Visto che è un termine che si usa molto di questi tempi, produttività, mi farebbe piacere se il professore potesse dare qualche dettaglio di cosa è e come si riesce a migliorare, tenuto conto che è anche un elemento importante per migliorare i salari e gli stipendi. È un invito a nozze per il professore, che è invitato a fare il professore, appunto. Vacciago. No, ma vorrei capire meglio la domanda. Vuole una definizione letterale? Di produttività. Che cos'è e come cosa si può fare per migliorare la produttività? Allora, la produttività oggi in Italia, soprattutto nei servizi, a cominciare da quelli pubblici, si migliora enormemente adottando finalmente le nuove tecnologie che ti consentono di lavorare con una quantità di prodotto molto maggiore. Pensate a quando usavamo i francobolli, pensate a quando usavamo la carta da scrivere, la macchina da scrivere, la carta carbone. Oggi con la tecnologia informatica esistente tutto questo lavoro lo si fa in un centesimo di tempo. Peccato che molti dei nostri uffici pubblici siano ancora cartacei, devi ancora fare le code, devi ancora spedire marche da bollo, incollarle sulle pratiche, andare in tabaccheria a comprarle. C'è un enorme svecchiamento da fare nell'organizzazione del paese. Se adottiamo le migliori tecnologie, produciamo 100 volte di più. Questo non l'abbiamo fatto negli ultimi 15 anni e quindi c'è un paese che ancora va con carrozze a cavalli. Nel campo privato, Vacciago, la produttività, maggiore produttività non vuol dire lavorare di più, ma lavorare meglio. Assolutamente sì, ma sono le nuove tecnologie che ti consentono di fare le cose meglio, sia nel tempo che nella qualità del prodotto. Quando io ricevo studenti e rispondo loro via computer, loro evitano di inquinare la città per venire a fare la coda davanti alla mia porta per venire al ricevimento. Io rispondo nelle 24 ore, entro mezz'ora, a qualunque studente, ovunque esso sia. Naturalmente, se tutto il paese funzionasse così, la qualità della vita sarebbe enormemente migliore, inquineremmo molto meno, la gente lavorerebbe più serena e sarebbe tutta collegata in modo efficiente. Grazie, Massimo da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Una domanda veloce. Per stare nella frase detta prima, mi sembra che i pompieri, per quanto riguarda il comparto bancario, siano già arrivati da parte degli Stati Uniti, da parte un po' di tutto il mondo, dell'Europa, e arriveranno anche per l'Italia. Però vedendo ieri la chiusura di Wall Street, dove addirittura sta perdendo adesso oltre il 50% rispetto ai massimi, e quindi oltre quello che è successo nella prima fase del 29, del 74, dell'87, del 2002, in borsa si sta credendo che questo non sia più colpa delle banche, ma sia il timore del possibile default di General Motors e quindi di Chrysler e di Ford. Quindi, professore, che probabilità c'è che gli Stati Uniti lasciano andare in amministrazione controllata General Motors e poi probabilmente anche gli altri? Perché da questo probabilmente può innescarsi una depressione, una grande depressione, così come era successo negli anni 30, visto che per l'economia, ma non solo americana, anche europea, riveste più del 10-15% del PIL il settore auto in termini di occupazione. Non scordiamoci che General Motors fa in giro bond per un importo infinitamente superiore rispetto a Lehman. Grazie. Giacomo Vaciago. La domanda è molto sensata e il Senato americano ieri ha discusso esattamente di questo: di chi è la colpa, chi cacciamo, e possiamo subire in America una perdita di 2 milioni di posti di lavoro se chiude l'auto. Attenzione, di nuovo, il problema è strutturale. Molte auto economiche e che consumano poca benzina oggi vengono fatte ovunque, meno che negli Stati Uniti, che era rimasto il paese specializzato nella produzione di auto enormi, ingombranti e enormemente consumatrici di benzina. Quindi un'idea vecchia e sbagliata, perché è chiaro che l'America è un paese grande dove le strade sono grandi, ma quando il petrolio va alle stelle, come succedeva l'anno scorso, anche gli americani soffrono, sono un grande importatore di petrolio, non lo fanno più tutto in casa. Allora, per farla breve, quelle tre società, così come sono e con le macchine che producono, sono già fallite sul mercato. Quindi il problema vero è: nell'interesse dell'intera America, vanno salvate o no? Anche lì vale il discorso delle banche. Nell'interesse dell'America il contribuente ci mette soldi se è sicuro che il futuro lo richiede, non il passato, che questi signori che hanno fatto errori colossali vanno a casa e che il futuro automobilistico di produzione di auto in un ricco paese come l'America, quando oggi le auto le produce per metà la Corea, la Cina, l'India, eccetera, ha ancora senso. Certo, quindi non salvare un'impresa, ma aiutare questa impresa a ristrutturarsi per ritornare sul mercato, appunto aiutare questa impresa, queste grandi imprese, ad adottare anche delle nuove tecnologie, dei nuovi processi produttivi. Un ultimo ascoltatore, Riccardo da Milano, buongiorno. Buongiorno, io lavoro proprio nel settore delle nuove tecnologie, pertanto quando ho sentito parlare professor Vaciago è stato per me uno stimolo a intervenire per dire quanto sia difficile proporre le nuove tecnologie in un paese che anche nel settore privato a volte è culturalmente arretrato. Sicuramente il professor Vaciago ha disegnato una situazione borbonica per quanto riguarda la pubblica amministrazione in alcuni casi, in altri casi no. La mia esperienza diretta mi porta a dire che ci sono esempi di eccellenza anche nella pubblica amministrazione, però c'è una mentalità comune in Italia di rifiuto delle nuove tecnologie. Un'ultima cosa volevo dire, professor Vaciago ha detto che l'Italia uscirà peggio dalla recessione, ma mi sembra che qualcuno anche di molto importante all'inizio avesse detto che noi ne saremmo usciti meglio. La ringrazio, siamo in conclusione, un'ultima battuta Giacomo Vaciago. Attenzione, qui si fa confusione fra l'Italia e la sua parte migliore. L'industria manifatturiera esposta alla concorrenza mica ha dormito negli anni scorsi. Ma quello è un quarto del nostro PIL. quella parte del paese che è moderna, che ha le nuove tecnologie, che sa stare sui mercati, subisce la congiuntura negativa, ma poi riparte. Peccato che non è tutta così l'Italia. Allora, quando uno prende l'esempio di industrie d'eccellenza che ci sono in Italia e conclude quindi il paese va bene, beh, non è una bella figura. Il paese, ahimè, è anche tanta arretratezza. Speriamo, e alla appunto parte arretrata le recessioni non fanno bene. Il problema appunto è sviluppare la parte positiva e cercare di limitare i danni sulla parte arretrata, cercando anche di fare i giusti investimenti sia sul lato privato sia sul lato pubblico per andare verso un paese più moderno, più capace di resistere anche alla recessione. Io ringrazio Giacomo Vaciago, professore di economia politica all'Università Cattolica di Milano, di essere stato con noi. Ringrazio Carmelo Larricella in regia e quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento è per lunedì.